Un insolito clamore di voci affabili nell'ingresso la fece trasalire. In un attimo ricordò tutto. Saltò giù dal letto e si vestì in gran fretta per la cena. Quando Lora entrò nel salotto erano già tutti lì: Sibyl e Titus, Fancy e il suo Mr. Wolf Saunders, Marion con le ultime notizie di Spratt che, trovandosi nel Sudan, non poteva accompagnare la moglie. Gli era venuta un'altra pustola sul collo che tuttavia si era arresa alle cure. Povero ragazzo, esclamò Harry e sembrava dicesse il prezzo dell'impero. Durante la cena Lora osservò i suoi parenti. Si sentiva come se avesse appena aperto gli occhi, immutata dopo un sonno durato 20 anni, e se li trovasse davanti quasi riconoscibili. Li studiò a uno, persino Harry e Caroline, che vedeva ogni giorno, erano mezzo sepolti sotto il peso di tutto ciò che erano andati accumulando. Agiatezza, autorità ed esperienza quotidiana. L'esperienza le ricopriva come un tappeto. Niente di nuovo poteva investirli senza che loro ne assorbissero l'impatto attutendolo. Se fosse scoppiato lo scaldabagno, se un poliziotto fosse entrato dalla finestra con la spada sguainata, Harry e Caroline, grazie alla loro grande esperienza di scaldabagni normali e normali poliziotti, avrebbero subito ricondotto la situazione alla normalità. Posò gli occhi su Sibyl. Strano che Sibyl avesse sostituito lo sguardo da grazioso furetto che aveva un tempo con quella raffinata maschera di cera. Ma soltanto quando taceva, come in quel momento, ascoltando Harry e tenendo gli occhi bassi, fissi sul piatto vuoto. Non appena cominciava a parlare, lo sguardo da furetto ricompariva. Sibyl doveva aver trascorso molti pomeriggi silenziosi nella sua casa di Hampstead, a imparare quella bellezza inaspettata, a preparare il proprio volto all'estremo aspetto della morte. Che cosa le era passato per la mente? Perché era così diversa quando parlava? Qual era la vera Sibyl? Il piccolo furetto agile e vorace o quell'urna cineraria? Mr. Wolf Saunders aveva mangiato tutto il suo pane e ora se ne stava lì perplesso. Lora gli chiese notizie del pronipote, che sembrava deciso a diventare bigliettaio sugli autobus. Se le cose vanno avanti così, penso proprio che lo farà, disse suo padre con aria mesta. Parlare di pronipoti faceva pensare ai nipoti. Riprendendo il suo esame dei commensali, Lora guardò Fancy, Marion e Titus. Da quando li aveva visti per la prima volta, erano cresciuti con la stessa sorprendente rapidità con cui crescono gli alberi, eppure non le sembravano cambiati tanto quanto i loro genitori. Titus, in particolare, era facilmente riconoscibile. Lo sguardo di Lora incrociò il suo e lui le restituì il sorriso, proprio come faceva da piccolo. Era diventato alto e magro e i suoi capelli color della paglia, invece di stargli ritti in una specie di cresta, erano ordinatamente pettinati all'indietro. Ma mentre rideva, un ricciolo gli era caduto in avanti e gli penzolava sopra l'occhio sinistro, dandogli una piacevole aria campagnola. Era contenta di essere rimasta amica di Titus. Il suo sostegno avrebbe potuto esserle molto utile e, sebbene non sentisse il bisogno di alleati, un po' di solidarietà non avrebbe guastato. Di sicuro, quella ciocca glielo faceva sentire particolarmente affine. Con che avidità mangiava quella mela e con che sprezzo della frutta importata aveva rifiutato le prugne californiane. Era bello poter contare sulla sua comprensione e sulla sua approvazione, dato che in quel momento Titus sembrava il più Willhouse di tutti loro. Quella sera gran parte dell'attenzione della famiglia era concentrata su di lui. Appena venne servito il caffè, Sibyl cominciò a parlare dei suoi progetti. Caroline aveva mai sentito qualcosa di più ridicolo? Titus si dichiarava ancora deciso a riprendere la gestione della fabbrica di birra. Dopo tutti i successi conseguiti a Oxford, dopo tutto il favore che si era guadagnato, cosa c'era di più assurdo che andare a seppellirsi nel Somerset? La prima parola che Titus udì entrando in salotto fu il proprio nome. Lo accolse con un sorriso di approvazione e andò a sedersi vicino a Lora, accavallando con cura le lunghe gambe. La mamma guarda dall'alto in basso la fabbrica di birra. Vuole che mi prenda un atelier Hampstead e modelli busti, spiegò. Titus aveva una voce sommessa, parlava in modo tranquillo e posato, sceglieva le parole con grande attenzione, ma evitava di riuscire pretenzioso, pronunciandole in tono sempre un po' esitante. Sono certa che la scultura è il suo métier, intervenne Sibyl, o forse la poesia, non la birra comunque. Se solo avesti visto il piccolo busto che ha fatto del droghiere di Arciacon. Io credevo che i busti avessero sempre la parrucca, disse Marion. Mia cara, hai colpito nel segno. In realtà è proprio questa la mia obiezione al suo progetto di fare di me uno scultore. Rimettete in auge le parrucche e io non avrò più niente da ridire. La testa è la parte più nobile dell'anatomia umana, quindi merita di essere magnificata da una parrucca. Per quanto Harry pensasse che la conversazione stesse prendendo una piega sciocca, in qualità di padrone di casa ritenne suo dovere prendervi parte. «E cosa ne dici dei marmi di Elgin?» chiese. «Niente parrucche quelli!» La parrucca e la sua funzione nel dramma attico, pensò Titus, poteva essere una deliziosa fantasticheria, ma suo zio non l'avrebbe apprezzata. Amabilmente ammise che i marmi di Elgin non avevano la parrucca. Dopodiché scese il silenzio. Se si fosse trattato di una delle solite cene, Caroline avrebbe letto in quel silenzio un segnale del fallimento della serata. Ma quella era una riunione di famiglia e non c'era nulla di ignominioso né non aver niente da dire. Erano tra Willhouse e il silenzio era un decoroso silenzio da Willhouse. Caroline poteva persino permettersi di sottolinearlo contando i punti ad alta voce. Le poltrone e i divani erano comodi. Il fuoco ardeva vivace nel camino, le tende cadevano in pieghe solenni quasi quanto le canne di un organo. Lolly si era persa in uno dei suoi sogni ad occhi aperti, tanto per cambiare. Mai che si prendesse il disturbo di tenere un po' su la serata. Soltanto Sibile era irrequieta e rigirava il calcagno nella scarpetta di raso. Che belle fibbie, Sibile! Le avevo già viste? Sibile aveva comprate di seconda mano per una miseria. Venivano da Arla e la vecchia che gliele aveva vendute era davvero un tipo strano. Ripeté le sue osservazioni con provetto accento francese. I suoi piedi erano snelli come un tempo e sapeva distenderli in modo molto aggraziato, ma per quanto intenta in quell'occupazione si ricordò di chiedere a Caroline dove sarebbero andati per le vacanze di Pasqua. Oh, immagino che torneremo a Blythe, rispose Caroline. Ormai conosciamo il posto. Quando avrò sfrattato i miei inquilini e prodotto il primo barile di birra di famiglia, vi inviterò tutti a Lady Place, disse Titus. Ma prima sapevo che verrete a trovare me? A Great Mop, intervenne Laura parlando un po' in fretta. Tutti la guardarono sbalorditi. Certo, non staremo comodi come a Lady Place e non penso che avrò spazio per ospitarvi più di uno per volta, ma sono sicuro che lo troverete delizioso. Non capisco, disse Caroline. Che posto è, Lolly? Great Mop? Ma non è grande come sembrerebbe dal nome. Si trova sulle Chiltern Hills. Ma perché dovremmo andarci? Per venirmi a trovare? Vado a vivere lì. A viverci, ma Lolly cara! A viverci, zia Lolly! Così, tutto d'un tratto, c'è davvero un posto che si chiama Lolly! Ci stai prendendo in giro? Facevano domande tutti insieme, ma Harry parlava a voce più alta, quindi Laura rispose a lui. No, Harry, non vi sto prendendo in giro. Great Mope è un paese sulle Chiltern Hills e io vado a viverci. Magari terrò anche un asino. E voi dovete venire tutti a trovarmi. Non l'ho mai nemmeno sentito nominare, disse Harry in tono conclusivo. Ma ti piacerà. Paesino isolato nel cuore delle Chiltern Hills. Great Mope è situato a 18 km da Wickendon, in una regione collinosa, ricca di faggete. La chiesa parrocchiale vanta una bella torre normanna e una finestrella obliqua. La popolazione è di 227 abitanti e nelle vicinanze, su una collina, ci sono le rovine di un mulino a vento. La stazione dista 20 km e c'è una fattoria che si chiama Dietro le siepi. Harry ritenne che fosse venuto il momento di interromperla. Non ti aspetterai che crediamo a questa storia. Lo so, sembra troppo bello per essere vero, ma è proprio così. L'ho letto su una guida e l'ho visto sulla cartina. Beh, posso dire soltanto che Harry, Harry! Lo mise in guardia Caroline e Harry non lo disse. Buttò via il cuscino dalla poltrona, fissò Laura con sguardo truce e poi voltò la testa dall'altra parte. Da un po' Titus cercava di prendere la parola e i suoi tentativi si libravano nell'aria sopra il tumulto come colombe della pace liberate l'una dopo l'altra. L'ultima fu la più fortunata. Andò a posarsi sull'ora. Che bella cosa tenere un asino. Sarà grigio come Madame? Vuoi dire che ti ricordi ancora di Madame? Certo che me la ricordo. Ricordo tutto di quando avevo 4 anni. Mettevate me in uno di 2 cesti del basto e Marion nell'altro. E andavamo a far merenda a Potts Dingle. Con il pan di Spagna e la marmellata di lamponi, ti ricordi? Sì, e il latte che sbatacchiava nella bottiglia del whisky. Avrai il tetto di paglia o d'ardesia, zia Lolly? L'ardesia è molto funzionale, ma la paglia è più materna. Comunque avrò una pompa. In casa o fuori? Te lo chiedo perché spero di usarla piuttosto spesso. Tu sarai mio ospite, vero Titus? Lora era un po' abbattuta. Sembrava proprio che nessun altro volesse andare a trovarla a Great Mope. Ma Titus si era dimostrato solidale come lei aveva sperato. Passarono il resto della serata a raccontarsi come Lora avrebbe vissuto. Per le 10:30 le loro elucubrazioni erano divenute estremamente fantasiose e il resto della famiglia si convinse che tutta quella macchinazione era soltanto uno degli strani scherzi di Lolly, che non divertivano mai nessuno. Harry riprese animo e canzonò Lora, avanzando l'ipotesi che Great Mope avrebbe ricominciato ad andare a caccia di Ervagata e sarebbe diventata la strega del paese. «Che bellezza!» esclamò Lora. Harry era soddisfatto. Ovviamente la sorella non faceva sul serio. Dopo che gli ospiti se ne furono andati, Harry ebbe messo la catena alla porta, tirati i chiavistelli e spento la luce nell'ingresso, Lora indugiò da basso ancora per un po', pensando che forse lui o Caroline le avrebbero chiesto qualcosa di più. Invece non le chiesero niente e andarono di sopra a dormire. Poco dopo Lora li seguì. Passando davanti alla porta della loro camera, sentì le loro voci il frammentario, rassicurante, intercalare, di una moglie e un marito che nutrono completa fiducia l'uno nell'altra e non hanno niente di particolare da dirsi. Lora decise di affrontare Harry l'indomani. Durante la colazione lo osservò e notò con soddisfazione che sembrava particolarmente di buon umore. Dopo 3 tazze di caffè, quando un mendicante aveva attaccato a suonare la tromba sul marciapiede davanti a casa, aveva commentato: «Ah, pover'uomo!». Prendendo coraggio da questi buoni auspici, appena la colazione fu terminata e il fratello e il Times si furono ritirati nello studio, Lora li seguì. «Harry?» esordì. «Ti devo parlare!». Harry alzò gli occhi. «Parla pure, Lolly», disse. E le sorrise. «Ti devo parlare di affari», riprese lei. Harry ripiegò il Times e lo mise da parte. Al contempo, se così si può dire, ripiegò e mise da parte il sorriso. «Allora, Lolly, cosa c'è?» Il tono era gentile ma professionale. Lora tirò un profondo sospiro, fece girare intorno al mignolo un anello di granati e cominciò. «Mi sono appena resa conto, Harry, che ho 47 anni». Fece una pausa. «Va avanti», disse Harry, «e che tutte e due le ragazze sono sposate». «Non che me ne sia accorta soltanto adesso, ma c'entra anche questo. Vedi, ora non vi sono più molto utile». «Mia cara Lolly», protestò suo fratello, «tu sei utilissima. E poi io non ho mai considerato il nostro rapporto sotto questa luce. Così ho cominciato a pensare e ho deciso che mi piacerebbe andare a vivere a Great Mope, sai, quel posto di cui ti parlavo ieri». Harry taceva, il suo volto era completamente inespressivo. Doveva rinfrescargli la memoria recitandogli ancora una volta la descrizione che ne faceva la guida? «Sulle Chiltern Hills», mormorò. «Popolazione 227 abitanti». Il silenzio di Harry la innervosiva. «Credo davvero che sia una buona idea. Mi piacerebbe vivere in campagna da sola. In cuor mio credo di avere sempre desiderato di farlo un giorno o l'altro. Ma i giorni sono così uguali che non si riesce ad afferrarne neanche uno. Se non vado subito non andrò più. Quindi, se non ti dispiace, vorrei partire il più presto possibile». Ci fu un altro lungo silenzio. Non riusciva assolutamente a capire a che cosa pensasse Harry. Non era da lui tacere, s'era seccato. Laura si era aspettata tuoni e fulmini, e tuoni e fulmini avrebbe potuto sopportarli. Ma quella bonaccia sotto un cielo basso gli faceva saltare i nervi. Infine Harry parlò. Non so proprio cosa dire. Mi dispiace che questa idea ti irriti. Non mi irrita. Mi addolora. Mi addolora e mi sorprende. Sono 20 anni che vivi sotto il mio tetto. Ho sempre pensato, posso sbagliarmi, ma ho sempre pensato che tu fossi felice qui. Felicissima, certo, disse Laura. Caroline e io abbiamo fatto tutto il possibile per renderti felice. I tuoi nipoti, tutti i tuoi nipoti, ti considerano una seconda madre. Ti siamo tutti affezionati. E adesso, di punto in bianco, parli di lasciarci andare a vivere in un posto che si chiama Great Mope. Lolly, devo chiederti di toglierti dalla testa questa idea ridicola. Non mi sarei mai aspettata di vederti tanto turbato, Harry. Forse avrei dovuto dirtelo per gradi. Mi rincrescerebbe darti un dispiacere. Me lo hai dato, lo ammetto, rispose lui, appigliandosi saldamente al proprio vantaggio. Ma passiamoci sopra. Dimmi che non ce lascerai, Lolly. Non posso, purtroppo. Ma Lolly è un'idea assurda. È quello che voglio fare, Harry. Se hai bisogno di svagarti, fallo, per carità. Vai in vacanza per 15 giorni, per un mese. Fa un viaggio all'estero se vuoi. Ma poi torna da noi. No, Harry. Io vi voglio bene, ma sento di aver vissuto qui abbastanza a lungo. Ma perché? Perché? Che cosa ti ha preso? Laura scosse la testa. Devi avere una ragione per farlo. Ti ho già detto quali sono le mie ragioni. Lolly, non posso permetterlo. Sei mia sorella e io sono responsabile per te. Devo chiederti una volta per tutte di rinunciare a questo progetto. Non è un'idea sensata né tantomeno opportuna. Ti ho già ricordato che ho 47 anni. Se non sono ancora abbastanza grande da sapere se qualcosa è sensato e opportuno o no, non lo sarò mai. A quanto sembra, no. Questo era già più da Harry, ma anche se aveva un punto di vantaggio, non sembrava rincuorato come dopo una vittoria. Così, in tono che rasentava la supplica, riprese: Lasciati guidare da me, Lolly. Prendete almeno un paio di giorni per pensarci. No, Harry, non mi va. Preferirei davvero risolvere subito la questione. E poi, se intendi disapprovarmi così decisamente, prima faccio le valigie, meglio è. Ma tu sei matta. Parli di fare le valigie e andartene quando non lo hai mai nemmeno visto quel posto. Pensavo di andarci oggi per fare tutti i preparativi. Beh, non farei proprio niente del genere. Mi dispiace sembrarti duro, Lolly, ma devi togliertelo dalla testa. Perché? È impossibile. Non c'è niente di impossibile per una donna sola di mezza età con una rendita propria. Harry impallidì lievemente e disse: La tua rendita non è più quella di una volta. Oh, le tasse! Esclamò Laura in tono sprezzante. Poco male. Anche con una cifra un po' minore posso sempre cavarmela benissimo. Tu non ti intendi di affari, Lolly. Non c'è bisogno che mi addentri in spiegazioni dettagliate. Basterà che ti dica che nel corso dell'ultimo anno la tua rendita è stata praticamente inesistente. Eppure i miei assegni sono coperti. Ho versato una certa somma in banca a tuo credito. Anche Laura era impallidita, gli occhi le brillavano. Ho paura che dovrai addentrarti in spiegazioni dettagliate, Harry. Dopotutto la rendita è mia e ho diritto di sapere dove è finita. Il tuo patrimonio è sempre stato nelle mie mani, Lolly, e io l'ho amministrato come ho ritenuto opportuno. Va avanti, disse Laura. Nel 1920 ho trasferito la maggior parte del tuo capitale al Fondo per lo sviluppo dell'Etiopia. Un investimento perfettamente sicuro che col tempo ritroverà il valore che aveva, se addirittura non lo incrementerà. Sfortunatamente, grazie al governo in carica e a tutto questo parlare di socialismo, gli investimenti più sicuri sono stati malamente danneggiati e il Fondo per lo sviluppo dell'Etiopia è uno di questi. Va avanti, Harry. Fin qui è tutto chiaro. Hai investito tutti i miei soldi in qualcosa che non rende. Ora spiegami perché l'hai fatto. Avevo tutte le ragioni di ritenere che sarebbe stato possibile rivendere quasi immediatamente con un certo profitto. In novembre le azioni erano salite da 5 e tre quarti a 8 e mezzo. Ho comprato in dicembre a 8 e mezzo, sono salite a 8 e tre quarti. Dopodiché hanno cominciato a scendere regolarmente. Ora sono a 4. Naturalmente, mia cara, non c'è ragione di allarmarsi. Risaliranno non appena avremo un governo conservatore, il che, grazie a Dio, succederà presto. Ma lo vedi anche tu, talmente fuori questione che tu pensi di lasciarci. E questi titoli etiopici non hanno dividendi? Questi fondi, disse Harry con dignità, non sono il tipo di titoli che danno dividendi. Sono, o per meglio dire, erano e di certo torneranno a essere, un solido investimento speculativo. Ma oggi come oggi non pagano dividendi degni di questo nome. Su, Lolly, non ti agitare, ti assicuro che tutto è assolutamente a posto. È solo che devi rinunciare a questa idea della campagna. E comunque sono sicuro che non ti ci troveresti bene. Soffri di reumatismi. Laura cercò di interromperlo. O ne soffrirai prima o poi. Tutti i Willow soffrono di reumatismi. Il Buckinghamshire è una regione umida. È colpa di quei poetici boschi di faggi. Vedi, gli alberi attirano la pioggia, è uno dei principi del rimboschimento. Gli alberi, cioè la pioggia. Laura pestò un piede per l'impazienza. Finiscila con queste stupidaggini e vieni al dunque, gridò. Non aveva mai perso la pazienza in quel modo, era una sensazione splendida. Harry sentiva la propria voce crepitare intorno alle orecchie del fratello. Hai detto che hai acquistato quelle azioni a 8 e qualcosa e che ora valgono 4. Quindi, se le rivendi adesso, prenderai un po' meno della metà di quello che le hai pagate. Esatto, disse Harry. Di certo, se Lowell era abbastanza versata negli affari da afferrare così chiaramente quel punto, con il tempo si sarebbe potuto farla ragionare anche su altre faccende. Molto bene, rivendile immediatamente. Lolly! E usa il denaro per un investimento quantomeno solido e speculativo possibile, qualcosa come il prestito di guerra che dia dividendi decorosi. Dovrei comunque avere abbastanza per vivere, anche se non sarà la vita comoda che avevo immaginato. Non potrò permettermi una casetta come speravo e nemmeno un asino. Vorrà dire che ne farò a meno. Mi importerà molto poco una volta che mi sarò trasferita lì. Si interruppe. Aveva dimenticato Harry e le cose spiacevoli che avrebbe voluto dirgli. Era arrivata sul limitare del bosco e ne sentiva sul volto il respiro fresco. Non le importava dell'asino, della casa, nemmeno del frutteto all'imbrunire. Se anche non poteva raccogliere i frutti da albero suoi, avrebbe sempre avuto a disposizione un'abbondanza di erbe selvatiche, frutti di bosco, ovunque scegliesse di girovagare. Quando si invecchia, è meglio spogliarsi dei propri beni, lasciar cadere le foglie come gli alberi, essere quasi totalmente terra prima di morire. Uscendo dalla stanza si voltò a guardare Harry. Nello stato d'animo in cui era avrebbe potuto benedirlo solennemente come prima di un addio perpetuo, ma lui era seduto con le spalle alla porta e non si girò. Quando Laura se ne fu andata, tirò fuori il fazzoletto e si asciugò la fronte. 10 giorni più tardi Laura arrivò a Great Mope. Dopo il colloquio con Harry non aveva più trovato alcuna posizione al suo progetto. Caroline aveva abbastanza buonsenso da arrendersi a un'ostinazione che aveva avuto la meglio su suo marito. E gli altri membri della famiglia, una volta svanita la sorpresa, si mostrarono del tutto indifferenti. Titus restò leggermente sconcertato quando scoprì che i romantici progetti di sua zia erano da prendersi sul serio. Da parte sua stava per partire per la Corsica. Paragonato al Buckinghamshire, una banale località montana, commentò cortesemente. Il giorno in cui Laura arrivò, pioveva e tirava vento. Si fece portare in macchina da Wickendon. La vettura avanzava a scossoni, mentre il vento sbatteva la pioggia contro i finestrini. Laura riusciva a stento a distinguere le curve del paesaggio. Quando la macchina accostò davanti alla sua nuova casa, si soffermò un attimo a guardare la strada che attraversava il paese, ma la vista era ostacolata dall'ombrello sotto cui Mrs. Slick la condusse in fretta al riparo della veranda. Anche il giorno in cui era andata a Great Mope in avanscoperta e aveva preso in affitto le stanze nel cottage di Mrs. Slick, pioveva e tirava vento in quello stesso modo. E in quello stesso modo le avevano assicurato Harry, Caroline e i loro amici sulle Chiltern Hills, Pioveva e tirava vento per tutto l'inverno. Non c'erano parole, dicevano, per descrivere quanto fosse deprimente e desolato l'inverno tra quelle colline così esposte alle intemperie. Per Lora, seduta accanto al fuoco nel suo salottino, il rumore del vento e della pioggia era piacevole. Un tempo così, pensò, a Londra non sarebbe mai permesso. Le impudenti raffiche di vento che colpivano il lato della casa e ricacciavano il fumo giù per i camini e il tumultuoso gorgoglio della pioggia nelle grondaie erano congeniali al suo temperamento. Temeraria, diceva il vento, sei venuta a unirti a noi. Eppure, seduta lì, senza altra compagnia che quelle voci inquietanti, Lora si sentiva tranquilla e felice. Il tè di Mrs. Leek era una forte miscela indiana. Le fette di pane imburrato sulla tovaglietta all'uncinetto erano tagliate spesse. C'erano anche confettura di susine su un piattino di vetro a forma di cuore e un vassoio di bignè alla marmellata piuttosto pesanti. Non era proprio come le merende che ricordava nelle fattorie del Somerset, ma comunque molto meglio di quelle di Hepsley Terrace. Quando ebbe finito di mangiare, Laura passò in rassegna i suoi nuovi domini. Il salottino era arredato con un grande tavolo di mogano, quattro sedie e un sofà imbottiti di crine, una poltrona e un buffet piuttosto dozzinale rispetto al resto del mobilio. Sulle pareti dipinte di verde erano appesi una stampa dell'imperatrice Josephine e due paesaggi classici alquanto torvi, con rovine di templi e vulcani. Il camino ai cui lati c'erano due stipi era il tipico focolare di campagna, con le mensole interne e un piccolo forno da un lato. Quando aveva visto le stanze per la prima volta, le era piaciuto subito e aveva chiesto a Mrs. Leek di poterlo usare per cucinare se lo avesse desiderato. Ci sono piatti come i funghi o il formaggio alla griglia che cucina bene solo chi li deve mangiare. Mrs. Leek non aveva affatto difficoltà. Era una donna di una certa età, di poche parole, modeste pretese. Suo marito lavorava alla segheria e non avevano figli. Non aveva mai avuto pigiananti. Ma fino all'anno prima una zia che aveva mezzi suoi aveva occupato il salottino e la camera in cui ora si era stabilita Lora. Non le ci volle molto per sistemare le sue cose, dal momento che ne aveva portate con sé ben poche. Subito dopo una cena a base di coniglio, pane, formaggio e birra, Lora si ritirò al piano di sopra. Mentre si muoveva nella stanzetta fredda, si accorse improvvisamente che il vento si era placato e non pioveva più. Scostò un angolo della tenda e aprì la finestra. L'aria della notte era fredda, odorosa, e la luna piena splendeva alta nel cielo senza nuvole, incantevole e sereno. Un pugno di stelle brillavano come gocce d'acqua sul punto di cadere. Per la prima volta Lora guardava il paesaggio tondeggiante di colline e vallate che aveva scelto di imparare a memoria. Scuri e compatti, si stendevano sulle colline i boschi di faggi. Posandosi silenzioso come una civetta, un gatto bianco balzò sul recinto del giardino. Si guardò intorno, corse per un paio di metri e poi saltò di nuovo giù, riprendendo furtivo la sua strada. Lora sospirò di felicità. Non aveva pensieri, la sua mente era sgombra e limpida come i cieli. Rimase a lungo affacciata alla finestra, dimentica di chi era e di come era giunta lì. Tanto soprannaturale era il suo appagamento. Ma nonostante tutte le sue prime giornate a Great Mope le procurarono scarso piacere, le gustò quella sovraeccitazione. Ogni mattina, subito dopo colazione, partiva per esplorare la campagna. Credeva che mangiando tanto appena alzata avrebbe potuto saltare il pranzo. Le giornate erano brevi e voleva sfruttarle il più possibile, il che le sembrava impossibile col ritorno a casa a metà giornata. Purtroppo non era abituata a colazioni abbondanti, così il suo entusiasmo veniva mitigato da un senso di pesantezza sin verso le 4 del pomeriggio, quando l'una e l'altra lasciavano il posto allo sfinimento. Allora tornava indietro, in genere camminando lungo la strada, perché stava diventando troppo buio per riuscire a distinguere i sentieri, e arrivava a casa zoppicante tra le 6 e le 7. In cuor suo sapeva che non si stava realmente godendo quelle giornate, ma l'abitudine a un'inutile operosità era troppo radicata in lei per essere cancellata da un cambiamento di scenario. E di sera, quando studiava la cartina e vi segnava con piccole orme insanguinate di inchiostro rosso i luoghi in cui era stata, si lasciava nuovamente incantare dai nomi e dalle mulattiere, finché, dimenticando le vesciche sui calcagni e la scontentezza di quel giorno, programmava una nuova escursione per l'indomani.